Radio Wombat. E buonasera amici, buonasera, siamo su 8 Hertz, l'ennesima puntata, cerchiamo di non fermarci mai e di proporvi sempre qualcosa di interessante, un po' fuori da dalle staffe, da vabbè, insomma, avete capito, dalle righe. Questa puntata torna a farla da solo. Nelle ultime due abbiamo avuto degli ospiti illustri quali Filippo Panichi e Niccolò Gallio. Ci hanno parlato un po' di delle musiche di compositori contemporanei, di accordature e intervalli differenti da quelli che siamo abituati ad ascoltare. Questa puntata sarà un pochino più, tra virgolette, leggera, è un po' più alla mano, ma non per questo meno interessante. Appunto cercherò un po' di stendere una linea spazio-temporale proprio nelle frequenze dei vostri cervelli, che sono proprio quelle importanti, che sono quelle situate nelle 8 Hertz, appunto come il nome del programma. Insomma, uno scontro incontro tra qualcosa che ha a che fare con l'hip hop, qualcosa che ha a che fare col crowd rock, qualcosa che ha a che fare con le colonne sonore. Misceliamo un po' appunto queste forme musicali di periodi e generi completamente diversi, fondendoli, creando una puntata, speriamo, piacevole, ma anche molto interessante. Parto con un pezzo in cui i gatti sono la parte principale, non solo del pezzo ma anche del disco. Il disco si chiama Meow the Jewels, e in realtà è un duo che si chiamano Run the Jewels. È un progetto di LP, che è un noto produttore hip hop di Basi, canta anche, appunto, oltre come LP ha fatto anche dei dischi bellissimi con i Candy Balox. Vabbè, insomma, il progetto di LP è Killer Mike, però a un certo punto hanno detto: facciamo Meow the Jewels, con i video che, dove ci sono dei gatti agguerriti che uccidono soldatini con gli occhi a raggi X, e più che altro le basi sono sempre, hanno un sacco di campioni di Miagolei dei gatti. E intanto lo iniziamo a ascoltare. Il pezzo si chiama Miao Purdi dei Miao dei Jewels. Miao miao. The cat album by the dog. Meow the jewels. Meow meow meow meow meow meow meow meow meow meow meow meow. Meow meow meow. Meow meow meow meow. I can't believe it. Somebody got to do this shit. Why not me? Sempre solo meow. Bang this bitch the fuck out. You might want to record the other way. You finna look at history being made. This motherfucker put a mirror on the goddamn screen. Let's go, LP. Huh? Champ. So we gonna do. I'm up at midnight, I'm dipping off in my knees like a gun on a metal piece. I've been knees, I fist to my wrist. I'm lurking, serving all pussies who lack a purpose. I got them filled up with frizz like Miss Ike. Is you all recite? I'm looking, lurking on bitches, twerking for service to bitches. Just back as a burger, I'm yelling, screaming, and cursing. I'm putting pistols in faces at random places like, bitch, give it up, I stand adjacent to Satan. Batman chilling, the villains is here. No Jesus is here, I hear the demons in my ear. And I want it, I need it, see it, I take it. Never faking, wrap you motherfuckers up. Leave you naked, just you runners. Top tag team for two summers. Live and let live, fuck you cuz, cause that's a fool's honor. I'm walking, toting on two llamas. You niggas ass and trash and trash. Fuck it, I'm fool's honor. Fuck you fuck boys forever, hope I send it politely. And that's about the psyche of Jamie and Mikey. You need another pair, better, highly unlikely. And if I can't rap it, Mac maggot, fuck, then fight me. I live for the thrill of the kill, yes, it excites me. You know your favorite rapper ain't shit, and me, I might be the closest representation of God you might see. Pay honors like your mama, young sonna, and take a right knee. The passion of pop, the depth of Nas, circa 9, Mr. Mind of Brad Jordan and Chuck D, and find me. I speak with the diction of Malcolm, I say a Bun B. Prevail through hell, so Satan get ye behind me. A kitten became a lion, and look at your face like great fool. A kitten became a lion, and look at your face like great fool. A kitten became a lion, and look at your face like great fool. I never been much of shit, by most measurements don't exist. On a radar, a little blip in the shadow of motherships. Smothered and brash them up, but my hustle's a global spin. The sign of my back's to stab me, my soul is your little bitch. Maybe you should be careful with flipping a stranger's switch. Assuming the war is won ain't a symptom of arrogance. With nothing to lose, a step up, then everything's for the win. So we grin in the face of frauds until monsters to suck our dick. I let it spit on your grave, my existence is to disgrace. The kitten became a lion, then look at your face like great fools. Why we got the people behind us? While the rappers are vaginas, for the fame and true runners will always stay rude. Motherfuck your permission, was never yours to begin with. And every bar of that bitch shit you spit is your fucking prison. I've been here making raw shit and never asked to be lauded. The jewels is the answer, your question is what's poppin'? We got your message. You'll be interested to hear it was broadcast live all over Earth in prime time. Got good reviews in the trades. Sorry to hear about the radiation leak on the ship. And real sorry to hear about the death of Commander Powell. There was a week of mourning here on Earth. We're all behind you guys. Keep up the good work, man. E non so se riconoscete questo pezzo di un film, ma è Dark Star di Carpenter, il primo film storico, ormai storico e cult suo, che ne parliamo tra poco. Perché ne parliamo? Perché una colonna sonora può essere un po' astratta, così come, well, Bob, come la puntata, appunto astratta, collegandosi tra hip hop e colonne sonore. Questo è già un esempio di cosa può succedere ascoltando un gruppo fuori di testa come Neo The Jewels, guardando e ascoltando la colonna sonora di un film fuori di testa come Dark Star, che appunto è del 74. Dicevamo, colonna sonora di John Carpenter, il film è una sorta di, secondo me, almeno di Aspettando Godot, in quanto sono gli astronauti ormai diventati barboni e hippie, che non sanno più che fare, avendo avuto gli ordini di distruggere pianeti. Appena ne vedono uno, li distruggono, ma non sanno quando finirà questa cosa e aspettano qualche dato in più. È anche un discorso, è anche un film che prende in giro 2001 di Stanley nello spazio, quella sequenza finale di un ipotetico AL 9000 che che anche lui scazza e fa un gran casino, però è molto più estremo secondo me di 2001 Odissea nello spazio. E, insomma, intanto ascoltatevi questa chicca, non so quando la staccherò, intanto ve la faccio ascoltare perché fino a un certo punto può essere interessante nella puntata. Godetevi i beat e a un certo punto anche un pezzo parecchio folk che ci sta benissimo. Fa un po' capire come erano i personaggi. Ci sarà anche una parte in cui vengono suonati degli strumenti fatti a bicchiere con dentro l'acqua che ricordano un po' qualcosa che abbiamo sentito nelle puntate scorse. Ok, vi lascio, se no parlo troppo. Congratulations on another successful bomb run, fellows. Hello, I got a goodie. An unstable planet. 85% probability of an unstable planet in the Vale Nebula that will probably go off its orbit and hit a star. You want to blow it up? Real good, Boiler. That's what I'm looking for. Chart a course for the Vale Nebula. Let's have some music in here, Boiler. Sure thing. Personnel, this is an emergency override. All systems must stand by. An asteroid storm is approaching the ship on collision course. This asteroid storm appears to be bound together by an electromagnetic energy vortex like the one we ran into 2 years ago. Normally, I wouldn't bother you boys with this problem, but as you recall, my defensive circuits were destroyed in that other storm. Therefore, you have 35 seconds to manually activate all defensive systems. Lock gravity system. Gravity lock. Activate after on three. Activate energy shield. Energy shield. We activate gravity lock. Confirm. Power drive system is activated. Roger, retracted. Lock all defensive system. Defensive system lock. Lock force field. Thank you. computer to bomb number 20. Return to the bomb bay immediately. But I have received the operational signal. It is a malfunction. This is not a bomb room. We are in a crisis situation. Return immediately. Nevertheless, I have received the signal to prepare for a drop. Emergency override. Return to the bay. Very well. Attention, attention, ship's computer to bridge. There was a malfunction aboard ship during the asteroid storm. I have not yet identified the nature of the problem. Shall I contact you when I find out what the malfunction is? Yeah, let's get out of here. For your listening enjoyment, we now present the Moonlight Melodies of Martin Segundo and the Scintilla Strings. Our first selection is the perennial favorite, When Twilight Falls on NGC 891. Insomma, potete usare anche quello che avete sentito come campioni di vocine varie, di discorsi vari. E tra un po' parte appunto la parte delle musichine con una strumentazione inventata lì per lì nell'astronave in mezzo al cosmo, ridotti male, ridotti tutti barboni e molto scoglionati, diciamocelo. Vabbè. Dall'astrattismo della colonna sonora di Dark Star di John Carpenter arriviamo appunto a parlare dei Cannibal Ox. Prima abbiamo sentito un pezzo di Run the Jewels, ovvero Meow the Jewels, e adesso proprio un pezzo che è tratto da in realtà uno strumentale di The Cold Vein, che è il disco quello storico loro, che erano due, ho fatto da LP e Vordul Mega. Appunto il disco si chiama Oxtrumental, le basi sono sempre una grande goduria, uno secondo me degli esponenti massimi di creatori di beat dell'hip hop. Intanto ce l'andiamo a ascoltare, dite addio a John Carpenter e buon ascolto. only 83 years. There's plenty of time later on for staring around. If we're going into the van, then we may actually find it strange and beautiful. So it's a Phoenix asteroid. They should be passing through here. Never heard of them. Nice. I hip hop distribution. Wet that and get all stressed out. Hell. See you. This surf and return to my nature. Raps with a meaning, stay shining. Cannibal Ox nella versione solamente strumentale. Adesso un altro bel pezzo, secondo me è una chicchina scovata in rete. Praticamente Neil Young fece un film che aveva codiretto un film che si chiama Human Highway dell'82. È una sorta di commedia bizzarra, Sembra un po' di guardare il Mago di Oz sotto trip, una storia un po' complicata, un po' stupida e molto allucinata. E a un certo punto suona un pezzo insieme a Divo. Divo si chiama così perché significa The Evolution, perché secondo loro il genere umano si sta sta tornando indietro, insomma, devolvendo anziché sviluppandosi. Forse hanno anche un po' ragione. Tra l'altro i Divo sono molto famosi, erano americani attivi nella scena post-punk. Il primo disco, forse il più bello, lo produsse Brian Eno. Adesso comunque ci ascoltiamo questa cosa, che appunto è tratta da un film, si chiama Hey Hey Mai Mai, Neil Young insieme a Divo. C'è un rapper che si chiama MF Doom, inglese d'origine ma poi immigrato in America, suona con la maschera d'acciaio che assomiglia appunto a quella dei fumetti della DC, se non sbaglio, tipo il Dottor Destino. Ha fatto un sacco di collaborazioni, dischi sotto nomi più svariati, ma sempre con la maschera. Ha collaborato con Madlib, tra l'altro, in un progetto che si chiama Mad Villain. A un certo punto si è sentito così villano, pazzo e caffone che narrano in alcuni concerti ha mandato altra gente a rappare sotto mentite spoglie al posto suo. Ha delle basi anche lui un po' improponibili, vicino al prog o anche a colonne sonore o al kraut, appunto, come del quale verrà messo qualcosa stasera. Comunque, il disco e il pezzo in questione è tratto da MF Food. Si chiama One Beer. Gustatevi lo stile di MF Doom.

Fuoco alle polveri, che è una sorta di contenitore di interviste, musica, con personaggi vari, interviste delle più svariate. La Revancia, che parla di punk e hardcore, 3000 siepi di aneddoti tra di sport e musica, La Fuga del Gatto, che è di classica, il rovescio della medaglia, l'abbiamo detto, no, è sul prog, vorrebbero fare una sorta di enciclopedia dalla A alla Z. Cosa rimane? Slick Chick, di musica e racconti, sempre a tema diverso. Soul Time, che è un po', appunto, come dice il nome, su cose attinenti a musiche calde. Tonight Alive, con vari tipi, tantissimi bootleg live, molto preziosi. Mortal Wombat, sul rap italiano europeo. Coccoli al silicio, e poi rimane l'Accademia della Brusca, che è di linguistica, che è un programma molto in voga. E quindi ci addentriamo nel krautrock ora, mettendo un lungo pezzo dei Can, che i Can sono, appunto, tra i primissimi esponenti del krautrock, è tratto proprio dal primo loro disco, che si chiama Tagomago, del 71. Il pezzo si chiama Alleluia. È proprio importante farlo ascoltare tutto nella sua lunghezza di 18 minuti e passa, perché l'ossessività è anche una parte del disco, e a un certo punto ci sono pezzi, sì, così ossessivi. Un pezzo addirittura assomiglia a qualcosa dei Nirvana, e altre cose sono molto più abstract, ma siccome l'ho fatto ascoltare tante cose di abstract e più tardi qualcos'altro ancora, vi ascoltate qualcosa di ripetitivo. Loro sono i Can con Alleluia. Play.

chi è che vi fa ascoltare Alleluva dei Can integrale alla radio? Solamente Radio Wombat, la radio che parte dal basso di Firenze, la vera radio cittadina di Firenze. E in particolare nel programma 8 Hertz, che faccio pubblicità ovviamente, se tante volte tu stai ascoltando così a caso dal sito che è wombat.noblogs.org. Poi c'è un Twitter, lo cercate, si chiama Radio Wombat Fi, il Facebook appunto lo cercate pure, basta scrivere Radio Wombat Firenze. La mail è molto importante, si chiama radiowombat@insiberia.net, per discutere potete scriverci le vostre proposte e quant'altro, e pure infamarci, anche se l'infamia è sempre una bruttissima cosa. Tra l'altro abbiamo il nuovo logo che è bellissimo, erano tutti belli anche quelli del contest che c'è stato, e piano piano li useremo, ma il logo ufficiale ormai è questo, che potete appunto vedere sui siti vari. Prima di continuare vi ricordo cosa c'è questo fine settimana a Firenze o in una frangia fiorentina che magari ci interessa in particolare. Allora, domani sera, venerdì 17 marzo, al Next Emerson, una serata del collettivo Nuovi Rumori, seratona, ci sono i Bologna Violenta, che madonna, c'ho cioè, una voglia di staccargli i jack mentre suonano entrambi, anche perché il batterista suona con la batteria elettronica, per cui si possono staccare jack pure a lui. E i Contatto, che ormai stanno diventando un gruppo storico nell'ambiente hardcore, The Major e i Plankton. Quindi andate numerosi all'Emerson, perché domani c'è veramente balotta. Sabato 18 marzo invece ci sono ben due cose, se volete vivervi la movida sgangherata fiorentina, alla Polveriera, che è in centro, alla mensa degli studenti, c'è Arcano 13, che è una performance poetica del collettivo romano Zuzwang, più aperitivo il 17, vi ricordo che appunto inizia presto e finisce presto. E sempre al Next Emerson c'è una serata reggae dubwise dei Militant Hi-Fi. Andiamo avanti con questo programma che oggi è un po' così colorato, astratto, anche intenso, spero. Parlando di un altro fautore di musiche e di beat hip hop, che si chiama DJ Shadow. DJ Shadow è molto conosciuto anche forse a livello più commerciale odierno. È stato praticamente conosciuto attraverso il primo album, che è diventato una sorta di cult, che si chiama Introducing, con i bittoni di batteria campionati, tagliati, ma quasi punto acustici, molto bombardoni e psichedelici. Appunto, però da Introducing, che a quanto pare ha influenzato un sacco di musica di oggi, ha cambiato via stile per arrivare a un pezzo che voglio mettervi, appunto un po' astratto come astratta questa puntata, che è tratto dal suo ultimo disco del 2016, che si chiama The Mountain Will Fall. Tra l'altro lui era un mago dei piatti dei campioni, e qui si possono sentire alcune piccolissime chicche tecniche. Comunque il pezzo si chiama Ghost Town, forse vi rompo troppo a parlare, e ascoltiamocelo. DJ Shadow. We'll be right back. choked and smoked out. Keep living like a loaf, you get toast to ghost town. Parlando appunto di astratto, mi è venuto in mente di farvi sentire qualcosa di Basil Kirkin, che è un batterista e compositore britannico, ha fatto tantissime colonne sonore, e quella che c'è in sottofondo è tratta dall'abominevole Dottor Fibes, che è un filmone veramente truculento per le uccisioni, ma anche per uccisioni pure fantasiose, così come la colonna sonora che appunto è in sottofondo. E in realtà non è proprio la colonna sonora, perché nel disco questa traccia è la suite of the unused music, cioè le musiche che non sono state usate per il film, ma che secondo me sono forse le più geniali. Per questo le ascoltiamo, sempre nell'ottica della follia della puntata, del taglio e cuci, del kraut, della colonna sonora, e dell'hip hop più contorto. Ricordiamo che è un film horror, il Dr. Fives, con Vincent Price e la regia di Robert Fuest. Ci avviamo anche verso la fine, manca un pezzo e poi qualcuno mi ucciderà. Suite of Unused Music del Abominable Dr. Fibes di Basil Kirkin. L'Abominable Dr. Fibes è un film horror di un po' di anni fa, del 71, abbastanza trucido e abbastanza cult. E questa suite secondo me era meravigliosa, riguarda anche un po' una parte di musica contemporanea scritta e suonata. Vi ricordo, per chi è entrato ora, che questo programma è 8 Hertz, siamo sul finire, non mi ricordo bene cosa vi volevo dire, ma siamo arrivati praticamente alla fine. E chi è l'entità hip hop che è riuscita a fondere il crowd rock con l'hip hop? È sempre loro, i Dalek o Dalek, questa entità tra le meravigliose nel panorama attuale, del Dalek del New Jersey, Dalek che ha anche fatto qualcosa con gli Zoo. Un gruppo nostrano di Roma e vicinanze, e appunto loro hanno fatto nel 2004 una sorta di collaborazione vera e propria senza una sorta con i Faust, che sono anche loro un gruppo storicissimo krautrock, già attivi nel 69. Proprio tra i gruppi assolutamente più conosciuti di quello che poi è stato definito krautrock, che vuol dire anche tutto niente, ma si parla di robe appunto kraut, un po' scherzosamente tedesche, che avevano a che fare con il rock, l'elettronica e la sperimentazione in una sorta che hanno creato un genere un po' tutto loro, ma anche così ampio, per cui tutto potrebbe essere considerato, tante cose potrebbero essere considerate krautrock, solo che il krautrock è finito. Comunque, il disco si chiama Derbe Respect Alder, e secondo me è proprio la summa della comunione tra l'hip hop e il kraut. È stato difficile scegliere un pezzo adeguato, perché sono tutti veramente belli e dovrebbero essere ascoltato tutto dall'inizio alla fine. Ne ho scelto uno che si chiama Collected Twilight, e speriamo che vi piaccia. Ecco, mi è tornato in mente quello che vi volevo dire. Presto su 8 Hertz ci sarà un evento un po' pioneristico, perché mi sto organizzando per fare suonare live alla radio una persona che equivale anche a un progetto dell'area fiorentina, per cui seguiteci, che ci sarà la puntata live con un live proprio elettronico di macchinette e synth di questa persona. Ma settimana prossima spero di darvi notizie più dettagliate e precise. Siamo alla fine, grazie di averci ascoltato, grazie a tutti. 8 Hertz, ve lo ricordo ancora, Dalek versus Faust con Collected Twilight del 2004, pezzo stupendo, ma tutto il disco è stupendo, ve lo consiglio altamente, vincono sempre loro. Buonanotte. This was Sinasta scribbled. Tattered writing on tattered aged page sums up our existence. Twisted persistence to remain where we were never quite welcomed. Stung at young age with belief that I was only placed here to bleed. Maybe breathe. So typical of our collective twilight. So typical of our collective twilight. Muddy haver, haven't been swung, hums, the astral tuning fork tuned to D. Your release of pent-up progression, leaving numb in sensation, beginning at outer limbs. That twinge of pain has always been there. Perhaps haven't lived in eons gone unnoticed. Now in full bloom, a midnight lotus. This pose allows a dialogue with those who'd rather not hear me. Diseased flesh can only suppress the ancient cries of an even more ancient soul for mere seconds. But I'm digressing. There are lessons to be taught through what was viewed as a simpleton's art. Let us embark upon this unnamed vessel to sail upon a lonely ocean. Some may believe me as encroaching. I was hoping to lose touch with you. Instead now I've lost myself within a tangled tongue, teetering on eating away at my mental health. Help me with stones if you must. I trust you'd rather not hear these poems.